Questa è la saga delle follie, è ciò che accade, non so fantasie, tra peripezie e macabre manie. Questa è la saga delle follie, succhiami il cazzo e portami rispetto e succhiami. No, l'ho già detto e per fortuna ho fatto rima. Con sta quartina t'ho sconvolto più di prima. Cosa credevi che ero così fesso? Mi hai fottuto sì, ma non riaccade adesso. Volevo solo sesso, quindi molto bene. Senza chiedermi succhiava pure il... No, questa volta fischio e chiudo galante. Ti asfissio dei discorsi come il grillo parlante. È così che va, le parole sono tante. Ti ripiglio i discorsi in diagonale come un fante. Come un cavallo faccio una L, con le cartine le riempio per vedere le stelle. La tua testa è chiusa come un re che non corre, accerchiata da regina, pedone monadorre. Questa è la saga delle follie, è ciò che accade, non so fantasie, tra peripezie e macabre manie. Questa è la saga delle follie, questa è la saga delle follie, è ciò che accade, non so fantasie, tra peripezie e macabre manie. Questa è la saga delle follie, ehi sono troppe queste follie, dammene ancora che ci famo le magie. Si famo magie oppure altre canne, tanto qui la testa già sta in panne. Nel mondo si dice prima il dovere poi il piacere, io fumo per il mondo per farmelo piacere. E far piacere il mondo qua è un dovere, se no butta via tutto e fatte pure un par de pere. E mo diventerò più infuocato e più cattivo, è il destino che ha ognuno ancora vivo. Più tempo passi e campi con la gente, più tempo te scassi e te rompi della gente, che te delude sempre di più, te fa vivere film peggio della TV. Basta questo errore, non lo faccio più, poi lo ricommetti ed è come un déjà vu. Questa è la saga delle follie, è ciò che accade, non so fantasie, tra peripezie e macabre manie. Questa è la saga delle follie, questa è la saga delle follie, è ciò che accade, non so fantasie, tra peripezie e macabre manie. Questa è la saga delle follie, per chi è ancora vivo è naturale a che fare con la gente per creare, fare procreare. Qui conviene pensare per bene, se stai nella merda non te taglia le vene. Più cresce più ti accorgi della merda che c'è sta, e proprio per questo la se vuoi evita. E ti parlo de merda in ogni testo, sarà che la merda l'ho conosciuta presto, ma te lo dico e sono molto onesto, ho speranze vere e non conta il resto. Ed è di questa gente che ho bisogno, ora sono un rapper, prima era un sogno. Cazzo te lo dico, ma cosa potrei fare se non c'è la gente per potergli rappare? Anzi a dire il vero io c'ho una fantasia, è ascoltato da tutti però questa è un'utopia. Questa è la saga delle follie, è ciò che accade, non so fantasie, tra peripezie e macabre manie. Questa è la saga delle follie, questa è la saga delle follie, è ciò che accade, non so fantasie, tra peripezie e macabre manie. Questa è la saga delle follie. Yo man.